Ok, buonasera a tutti. Rock Wave del mercoledì, sempre dal vivo. Abbiamo prima fatto una piccola finestra per presentare Sempre Noi. Buonasera, Sempre Noi. Buonasera. Avete buonasera. Fatto un buon viaggio da Reggio? Sì, un po' di caldo, tanto caldo. Parecchio caldo, però la musica, il caldo lo attenua, si può dire sì. Questo? Beh, ecco. Sì, cosa dici? È un bel caldo. È un bel caldo. È a Padova, sai, a Reggio Emilia non so se ci sia il caldo che c'è a Padova. È caldo molto umido anche a Reggio. Noi pensavamo di partire da Reggio e trovare un po' di fresco a Padova, No. Forse c'è più caldo qua da voi che da noi a Reggio. Assolutamente, è caldo, è un caldo umidissimo quello nostro. Però sai, è l'umidità che è l'umidità che fa il caldo, però non fa la musica. La musica è al di sopra di tutte le cose. Sempre Noi, un progetto che dura da quanto tempo, ragazzi? 20 anni. 20 anni. Come è nato? Come si è sviluppato l'idea? L'hai avuta allora, te l'idea? Io sono... Intanto ci presentiamo, chi siete? Nome e cognome. Allora, vai Paolo. Io mi chiamo Giampaolo Lancellotti. Benissimo. Detto GPL. Detto GPL per la sigla delle tue iniziali. Io ho suonato 20 anni con Augusto D'Aoglio. Perfetto. Mito, un mito, assolutamente sì, un mito. Esatto. Poi c'è Giovanni della Giustina, ma adesso si presenta a loro. Vai Giovanni. Io sono Gio della Giustina, sono il bassista, sono qui Sempre Noi dal 90, prima ancora che si chiamassero Sempre Noi, ma si chiamavano ancora GPL Band. Esatto, si chiamava GPL, è vero, eccolo qua. Ecco, prenditi il foglietto. Tutti i riferimenti con i quali va davanti. Dimmi. E niente, sono il basso e questa sera suonerò anche un po' la chitarra, ma di solito il mio strumento è il basso. Il basso. Io sono la voce, Davide Bazzoni, e poi dopo qui alla mia sinistra. Il nostro chitarrista. Il chitarrista Napo. Che ha proprio una casa delle chitarre, come c'è scritto House of Guitars davanti. Ti vedono con le telecamere, ti vedono, quindi hanno visto. ti vedono, non puoi tutti. Sfuggire, non possiamo sfuggire. No, diretta rockwave.altervista.org, vi vedono tutti in questo momento, dal vivo, quindi... I tuoi piedi non li vedono, ma quello infortunato soprattutto, non lo vedo. Però se vogliamo sentire Paolo che racconta la storia della nascita di Sempre Noi, 20 anni fa, perché compiamo 20 anni. Ho suonato 20 anni con questo Augusto D'Aoglio, vero? E poi sono uscito dal gruppo e ho detto... Continuiamo. Faccio un gruppo. Continuiamo, esattamente. Esatto. Perché hai detto una cosa giusta, hai fatto il motivo perché hai continuato, perché lo spirito deve rimanere, devi dare una forza, la forza deve continuare, giusto? È così? Sì, è così proprio. E ho cercato di continuare appunto la storia che avevo fatto un po' in precedenza. Ecco. Ho trovato i ragazzi giusti, subito avevo un cantante argentino. Come mai avevi un cantante argentino? Perché ho trovato subito questo cantante, ho messo in giro la voce, che volevo formare un gruppo, no? Bene. E quindi mi si è presentato questo ragazzo argentino, un bel ragazzo, alto, capello lungo, solo che il problema era che lo spagnolo lui lo parlava benissimo. Ma l'italiano? Ma l'italiano non diceva le doppie. Ah, ok. Per quel motivo, no? E allora... Però no. Fatto il suo percorso di credo 2 o 3 o 4 anni con voi, sì, esattamente. Quando, sempre GPL, sempre, sì, la GPL Band. GPL Band. Dopo è entrato Chris anche, Chris, il violinista, due anni circa. Sì, che lui anche allora lui ha battezzato un po' lui la situazione. Sì. Sempre Noi, ha inventato lui il nome Sempre Noi praticamente. Sì. Chris è assieme a te, esatto, esattamente. Sempre Noi, e quindi. Con dire siamo in due, e quindi Sempre Noi, ma non più GPL Band. Esattamente. E la Sempre Noi che va avanti e sono già... Certo, io ho visto i video vostro, ho visto i concerti che fate, 900 concerti avete fatto nel totale, mi pare, sbaglio? Sì. Ecco, sono tanti 900 concerti. Suonate dappertutto, piazze... Facciamo piazze, facciamo anche locali piccoli d'inverno. Certamente. È logico con la strumentazione ridotta. Però d'estate vi scatenate. Però d'estate facciamo le piazze, ecco. Esattamente. Dalla Calabria a A Padova. A Padova. A Padova. Calabria, Sardegna. Esattamente. Anche isole comprese. Sì, sì, Vittorio, sì. Veneto. Via. E via, visto che lui è originario, i suoi parenti sono originari di Vittorio Veneto. Ma no, io di Conegliano. C'ho il bisnonno che era di Conegliano. Di Vittorio Veneto. Vittorio Veneto. Poi abitante di Conegliano Veneto. Di bello, è bella zona, quella zona del vino. Esatto. Il Prosecco. Esatto. Molto buono. Prosecco è una cosa molto interessante. Quindi, sempre noi... è andato avanti, sono 20 anni adesso, quanti sono? 20, sì, 20 anni, 20 anni circa. Settimana fa. Ecco, un bel complimento. Sì, siamo infatti io non pensavo neanche... Di andare avanti così. Sì, cioè ci pensavo di andare avanti. Sì, certo, però... siccome io sono uno che vivo un po' alla giornata, cioè nel senso che non mi faccio grosse... dico. Finché funziona, finché dura, bene. Ma è dura, ma certo che è dura. Io ho sentito i vostri album, i vostri pezzi, chiaramente a me sono piaciuti molto. Da discografia quanto comprende? Tre album, giusto? No, dunque, ci sono di più. Di più. 3, 4, 5. 5 album. Di più. 5, 6... Medio Oriente penso sia stato fatto nel 93, poi dopo c'è stata una riedizione. Ho capito. Prima è uscito in cassetta. Quindi in totale quanti sono gli album? Ah, sono Medio Oriente, poi è uscito Noi 2000, poi è uscito Vieni via con me, poi è uscito Senza live. Confini. Il live. E poi c'erano, in mezzo c'era anche un live, esatto, un live. Quindi 8 album. 8 album, sì. Almeno 8 album, benissimo. Stasera... presentiamo dei pezzi del vostro repertorio, poi suonerete i pezzi dal vivo per dare un quadro della vostra formazione, chiaramente. Sì, perché così, cioè, io ad esempio sono la batteria, ma qui certo, ho le corde. Chiaramente qui siamo un locale, una radio, un po' difficile. Possiamo fare questo indovinello, visto che ci saranno degli amici che magari ci certo, seguono. Sì, certamente. Di indovinare quanti dischi hanno fatto finora sempre noi. Esatto. Facciamo esatto, questo indovinello. Se c'è qualche ascoltatore attento che ci può dire con precisione. Chiamalo. Uno può andare certamente sul nostro sito, vedere su internet. Certo. Però almeno da avere, così vediamo se c'è qualche ascoltatore. Così che ci allora, cominciamo da che album da far sentire sempre dal disco adesso? Beh, adesso facciamo una canzone tratta dal disco Fuori Sintonia. Fuori Sintonia, che è il pezzo, ti ricordi il titolo? Senza Memoria. Senza Memoria, puoi dare una descrizione un momento o la facciamo sentire dopo? Ma te la faccio descrivere da giorno. No, adesso Dade vanno... No. No. Quelli della regia. No, io... Sì, no, il pezzo... Facciamo, no. Facciamo un pezzo... Adesso mettiamo su un pezzo da disco. Da disco. Da okay. Disco. E da che sì, da disco, esattamente. Cos'è che è? No, lunga la strada. Sognando qui. Ah, sognando qui. Okay. Sognando qui. Sognandoti qui. Un album del 2004. Fuori sintonia. Però il disco l'avevo detto. Disco l'avevi detto era giusto. Era fuori sintonia, ho sbagliato la canzone. Sì. Ne parliamo dopo, lo sentiamo, ok? Prima. Va bene, va perfetto. Bene. Ok. Svegliandomi chissà se anche tu stai pensando a me. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Benissimo, allora descriviamo il pezzo, come è nato, come si è sviluppato, come è stata l'idea, come è partita. Diciamo che noi quando dobbiamo registrare un disco comunque tu stai sempre in piedi, stai bene in piedi, non sì, c'è un problema che non casca il microfono. No, assolutamente. Non cade? No, prova di bomba. E, appunto, ascoltiamo del materiale che ci arriva anche da amici, fans e tutto, eccetera. E Sognandoti qui è una canzone che appunto è arrivata da un amico, un certo Fabio Mariotti, che è un ragazzo di Brescia, ci ha mandato alcune sue canzoni. Difatti ne abbiamo proprio due, tra l'altro, da far sentire. Una l'abbiamo appena ascoltata e un'altra sarà lei più avanti. Più avanti. E niente, noi appunto raccogliamo il materiale di questi amici, di questi fans. Alcune canzoni, magari ci arrivano delle poesie, diventano canzoni. Poi quando magari Joe o Paolo gli mettono la musica. Anche Paolo riceve del materiale dal nostro amico Casolari, che ci manda veramente tanti testi. E ci mette la musica Paolo, ci mette la musica Giovanni e diventano poi delle canzoni di sempre noi. Però Sognandoti qui ci è arrivata già un po' quasi fatta tra musica e parole. Noi diciamo l'abbiamo un pochino arrangiata a nostro piacimento, in canna allo spirito vostro. Allora sì, infatti poi diciamo, dopo magari... diciamo che l'arrangiamento è di Napo, del chitarrista. Che ha sempre male il piede, sta guardandosi sempre il piede. Come mai si sta gonfiando? Hai preso una zanzara forse? No, lui quando prende un pochino di sole, non so, c'è successo un anno, ti racconto questa cosa, simpatica, eravamo in Sardegna a suonare, in piscina, e facciamo il bagno in piscina, prendiamo il sole, a un certo punto, andando a sera, è incominciato a gonfiarsi dei cuscinetti d'aria sotto i piedi, delle bolle d'aria, ma proprio una cosa impressionante da guardare, non riusciva a camminare, il giorno dopo dovevamo prendere... l'aereo in aeroporto con il carrello quello per portare le valigie, portavamo in giro un po' perché no, cioè aveva due piedi che erano veramente due cuscinetti, airbag. Ho capito. Ogni tanto gli è rimasta questa cosa. Si perché lui un po' di fondamentalmente sole, è un nordico, probabilmente per quello. Infatti è un nordico. Un po' norvegese. Fino a qua lo posso prendere tranquillamente. Sì. Hanno detto che assomiglia un po' a Ibrahimovic, magari svedese. Un po' questo. Sì, nei capelli si può darsi che sia vero. Vabbè, ok. Vabbè. Al di là dell'episodio del piede. Comunque. Tornando alle canzoni, sì. Appunto, così abbiamo mandato anche un annuncio agli amici del Veneto che magari certo. Ci stanno ascoltando e hanno del materiale magari da proporci, certo, via. No. Se vogliono inviarcelo, noi lo ascoltiamo volentieri per tu qualche detto, futuro tu hai disco. Detto che Paolo è un altro Paolo Giovanni e Paolo Giovanni ha arrangiato il pezzo. Cosa vuol dire Paolo hai arrangiato il pezzo? Niente, io guardo il testo, lo leggo, mi metto il pianoforte e inserisco gli accordi in base alle parole, quello che dice il pezzo, cerco di creare un'atmosfera che combini con il testo, ecco. E questo poi dopo è logico, l'arrangiamento finale è quello quando si suona tutti insieme che si decide cosa fraseggiare in quel punto. Quindi decidete tutti insieme, tu fai un momento di pianoforte, non so, un accordo. A me mi mandano il testo così. Esatto. Che non il tuo ragazzo ti ha mandato il testo. Che non ha nessuna per dire. Sulla melodia, no? Certo, solo il testo lo leggo e io devo creargli una melodia e quindi mi metto lì, comincio a canticchiarlo, guardo, inserisco gli accordi, cerco il motivo, lo sento, lo registro per vedere com'è e poi da lì nasce tutto. Una volta finito viene un discorso democratico o scegli solo te? No, c'è un discorso democratico qua, perché era una battuta, chiaramente. Era una battuta. Anche Chris, anche lui, lui lavora sui suoi pezzi perché lui li canta in inglese. Sì, lui li canta in inglese, in Chris, sì, esatto. Quindi stessa cosa, insomma. Okay. Cioè, l'arrangiamento poi finale per dire, Napo ci mette le chitarre, dice ma qua starebbe bene questo o quest'altro. Sì, poi lì va sempre in base... Lo ascolti, al momento anche sì. All'ispirazione alla sensazione hai di quella cosa la sensazione del testo che tu hai, tu crei qualcosa, lo sviluppi e poi gli altri dicono sì va bene possiamo andare avanti, senti come suona, dici, poi pensi anche a come suonerebbe in radio, certo è vero, pensi, anche questa è una cosa giusta anche questa e quindi, che importanza dai alle radio? Esiste ancora un'importanza secondo te alle radio? Dopo tu che hai passato tanti fiumi, sì esiste l'importanza delle radio, sono basilari perché se un pezzo non passa in radio non lo sa nessuno che l'hai fatto, a meno che per dire tu non fai tanti concerti che ogni concerto dice abbiamo fatto il disco come diceva Finardi, allora ama la radio perché come parlava Finardi la radio amo sì. La radio vedi? Perché sì. Arriva tra la gente nelle case la radio è importantissima perché la radio ti porta il disco in tutte le case, insomma. Esattamente. Quindi sempre noi creano il pezzo così, con un testo non sempre vostro, un testo può darsi che arrivi da qualche altro, da qualche amico, qualche vostro fan. Sì. Il testo arriva, la poesia arriva, la sviluppate, la orchestrate e la mettete dal vivo. Esatto. I pezzi dal vivo come li fate? Molto potenti o anche velutati? Dipende sempre dall'atmosfera di dall'atmosfera. Questo. Però di solito noi siamo, come si dice, dei padani, no? Siamo emiliani. E quindi siamo dei rocchettari, però la melodia esiste. Ma esiste la melodia nei vostri pezzi. Siete i rocchettari, sì, un rock melodico. Un rock melodico. A proposito, facciamo padano. Un rock padano, esattamente. Sì. Sentiamo un altro pezzo dal disco. Me lo leggi adesso, ti ricordi? Vita mia. Una canzone che ci è arrivata da parte di amici. Questa... canzone, ti devo dire, l'abbiamo presentata per poter partecipare a Sanremo. E com'è andata? È andata male, se non ci hanno visto Sanremo, ne arriverà un'altra perché ci abbiamo provato due o tre volte. Insomma, ma comunque adesso la sentiamo e poi mi dite perché è andata male a Sanremo con Vita mia. Va bene? Va bene. Vita mia. Rock Wave. L'onda del rock. Quando sei con me cosa c'è? C'è che forse amore è la mia libertà. C'è la mia poesia, la verità, dietro agli occhi tuoi che non fingo mai. Vita, vita mia, come dolce la tua attesa, perché so che io ti rivedrò. Farne a meno no, io non potrei. Questo amore viaggia forte insieme a noi. Gira il mondo e poi luce sarai di ogni mio pensiero quando lo vorrai. Vita, vita mia, come magica l'attesa, perché so che io ti rivedrò. Vita, vita mia, sento quasi il tuo respiro, perché so che tornerai da me. Parlami di te, di ciò che vuoi, resto ad ascoltare quando parli tu. Come ti vorrei, non basta mai, quando i tuoi vestiti dopo cadono giù. Vita, vita mia, come dolce la tua attesa, perché so che io ti rivedrò. Vita, vita mia, sento quasi il tuo respiro, perché so che tornerai da me. Vita, vita mia, la mia anima è sospesa, tu ed io non chiederò di più, perché tu lo sai che non vivo se non ci sei. Illuminami col tuo sorriso, ti amo di più. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo. Abbiamo sentito questo pezzo, allora praticamente abbiamo descritto come è nato, come si è sviluppato, e voglio sapere il discorso di Sanremo, visto che ci siamo. E niente, il discorso di Sanremo, che ti hanno bocciato sto pezzo con la casa discografica. Abbiamo provato a inviare il pezzo a chi di dovere, esattamente, e è arrivato appunto questa commissione che sceglie i pezzi, li ascolta e tutto, e poi hanno scelto degli altri. Questo è forse la nostra casa discografica. Non era così grande come le altre, che hanno portato i loro artisti, e allora hanno dato la precedenza degli altri artisti, e noi ci hanno detto riprova, sarai più fortunato, e vabbè, così ci abbiamo riprovato l'anno dopo. Però parliamo del prossimo pezzo quando arriverà, cioè, ho capito, la canzone, ho capito. Poi parliamo anche del secondo pezzo. Posso farti una domanda? Mettiti davanti il microfono. C'eri all'epoca in cui Augusto ha quattato quel pezzo di Sanremo, te? Quando ha portato Sanremo, quel pezzo di Sanremo col suo gruppo, Augusto, c'eri? Sì. Ecco, sì, sì. Ti ricordi? Non dimenticarti di me. Esattamente. Sì. Che è l'unico che ha portato, che hanno portato. Dopo. Sì, io parlo sempre del periodo di Augusto. Sì, sì, sì, sì. Non dimenticarti. Hai qualche sensazione, qualche ricordo di quel pezzo? Sì, molto. Ora, ricordo che dall'emozione, perché io avevo 21 anni, dall'emozione mi è scoppiata una tonsilla in gola. Ah, questo non lo sapevo. E poi niente, è venuto il medico e la sera dopo, insomma, dovevamo suonare in diretta. E il problema era anche che noi eravamo sul palco e l'orchestra, perché suonava con noi anche l'orchestra, era giù, c'era una buca una volta nei teatri, sì, no? cioè, era giù in questa buca, io dovevo guardare le braccia del maestro esattamente per poter portare il gruppo a tempo con sì, che tu suoni a batteria, sì, dobbiamo ricordare questo. E quindi ricordo questo aneddoto perché era emotivamente difficile andare su quel palco lì, che era Sanremo, certo, 21 anni. Chiaramente è una responsabilità. È una grossa responsabilità. E vanno bocciato sto pezzo praticamente. Sempre sì. Non solo, anche altri. Anche altri. La commissione boccia questi pezzi di Sanremo, dicono. Sì. Ma io dico che non è la commissione. No, cioè la commissione tecnica, generalmente, come abbiamo fatto poi successivamente anche con l'altro brano che dopo andremo a sentire. Purtroppo la giuria tecnica sceglie dei pezzi che a loro piacciono anche per varie ragioni, sia tecniche che diciamo qualitative per quello che riguarda suoni, arrangiamenti. Poi è chiaro che sopraggiunge, diciamo, tra virgolette, del business, che vuol dire naturalmente la popolarità, il blasone di quello che è l'artista. E lì interviene la RAI che dice... Sanremo è sempre Sanremo, però è un business. Eh sì, perciò hai ragione. Dobbiamo raccogliere audience più che canzoni, via. Non è più diventato un festival della canzone, è un festival del business e basta. Sì, invece all'epoca tua può darsi che fosse stato ancora leggermente il festival della canzone. Sì, sì. Però insomma. Sì, anche allora c'erano i giochini all'interno. Certo. Di chi era quel pezzo là? Di Dattoli? No, il testo era Mogol. Di Mogol, sì. Sì. Mogol Prudente, forse. Mogol Lavezzi, esattamente. Ah, eravamo in coppia con Mal dei Primitivi. Esattamente, all'epoca non cantava Furia ancora. E siamo la sera dopo ci hanno eliminato. I tuoi occhi sono due fuori. Però quel pezzo era molto bello. Io, sì, cioè, risentendo anche anni dopo, era un pezzo valido secondo me. No, il pezzo era molto bello. Augusto lo cantava. Augusto era bravissimo. Meravigliosamente proprio. La voce superiore. Solo che non è stato capito, o meglio, hanno forse deciso in che... coppia con Mal non era proprio la coppia da... sì, Mal faceva, sì, lui cantava Pensiero d'amore, non dimenticarti, ancora ce l'ha ancora quella là adesso, ce l'ha ancora il sì, lui anche è sempre inglese, nonostante viva a Pordenone da un sacco di tempo, però lui parla ancora tutto così, ha mantenuto, sì, vero. Perché piaceva molto, esatto, alle donne, piaceva alle ragazzine, lui dai primi, cioè lui dai Primitivi, che arrivava dall'Inghilterra, i testi gli scriveva Luigi Tenco, quindi non so, eppure era così. Ha passato marchio. Un periodo lui che era Sua Eccellenza proprio Mal dei Primi. Hai detto giusto, Sua Eccellenza Mal dei Primi. Sai perché te lo dico? Perché ieri sera, proprio per la Rai, a Rai 3, molto tardi, hanno fatto vedere gli anni 60 e poi c'era tutti questi riferimenti, queste cose. E c'eri anche te, probabilmente, nella formazione quando qualcuno ha intonato Dio è morto. Dal 69 fino al 90. Io prima c'era Bila. Zara Bila, sì, è vero. Ritorniamo ai Sempre Noi. Questo era il pezzo di Sanremo che è andato come è andato. Adesso non siamo a Sanremo, ma siamo qui a Padova e suoniamo un pezzo live. Cosa avete deciso di fare? Facciamo un pezzo che, come abbiamo raccontato prima, è sempre una poesia che ci hanno inviato. È una poesia di un amico, tra l'altro, che è scomparso qualche anno fa, Mario Ferrario. E ci ha lasciato però questa grandissima poesia, questo bellissimo testo che Giovanni poi ha messo in musica, e anche lui questo brano l'avevamo inserito appunto nel disco Fuori Sintonia, che si può dire che sia stato il primo disco, almeno da quando ci sono io nella formazione, dal disco 2002, privo e proprio. Sono entrato io a far parte di Sempre Noi, appunto a primo disco con maggior parte di canzoni nostre, vostre. Ci sono due brani poi inconfondibili, sì, chiaramente, che sono Canzone per un'amica, Io vagabondo, che si allacciano sempre alla storia di Paolo e Chris, certo. Però diciamo che 12 brani, sì, sono vostri, 12, praticamente 12 brani nostri e due, e poi in questo disco io ho scelto un pezzo che è sempre scritto Giovanni, che io trovo meraviglioso, che per un mese andrà in onda nella nostra emittente, e mi ha dato uno stimolo diverso, cioè una ballata ma un po' particolare, l'ho scelto quello, ma ne parliamo cos'è, dopo cos'è ti ricordi il pezzo? Sì, immagini di te. Esattamente. Ah, quella che non ci abbiamo stasera. Ah, peccato. Non peccato, ce l'abbiamo stasera. Peccato. Sì, la facciamo un play. Esattamente. In ogni caso un pezzo meraviglioso. Ma adesso sentiamo questo. Va bene. Rock Wave. L'onda del rock. Per sentirti narrare di verità ormai lontane, è che il mio cuore non è sazio d'ascoltare. Parli e guardo i tuoi bianchi capelli, il tuo sguardo d'acciaio, forte e silenzioso, diffonde ancora i tuoi sentimenti alle tue passioni, e sul mio volto la malinconia per quel tuo mondo che è fuggito via. Per chi come pietre senza nome non conosce la storia, proletario di fiori e di anima, dammi la tua memoria. E stai segnando la mente e il tuo corpo, la mente e il tuo corpo. Proletario di fiori e di anima, continua la storia. La rappresaglia giù nella pianura, braccati sul fiume fin sulla montagna, quel giorno odorava di morte, ma grazie agli amici furono salve le tue radici. Vedo sul tuo volto la malinconia, che in quel momento anche la mia, la mia. Muoviti, muoviti, muoviti e scappa via. Nel campo le pietre ti negano ogni poesia. Proletario di fiori e di anima, dammi la tua memoria. E stai segnando la mente e il tuo corpo, la mente e il tuo corpo. Amico, è stato bello stare insieme. Domani mattina ritornerà l'Urgiada e in cerca dell'acqua noi due sentiremo ancora il vento fischiare. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, è la prima, se è andato bene, non c'è poco da fare. Ho visto una cosa seconda... molto interessante. Hai ucciso la zanzara che ti percuoteva. Era un ragno. Era un ragno. Lui riesce a uccidere i ragni anche mentre suona. Ma t'hanno visto, sai, che hai ucciso il ragno, non è quello degli 883, non c'entra niente quel ragno di 883. Comunque, no, adesso Mauri, dimmi. Era un questo è un brano, credo, io ho sentito molto, perché diciamo che parla a un argomento che per noi è di fondamentale, cioè, soprattutto per quello che mi riguarda, di fondamentale importanza. Primo perché vabbè, l'ha scritto Mario Ferrari, un nostro caro amico, ma soprattutto per quello che dice, diciamo che per tutto quello che c'è stato nel passato, le guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, io credo che la memoria sia importante, perché e appunto questo vecchio che parla con questo giovane che gli fa queste domande e gli dice: tu che sei vecchio, hai capelli bianchi, raccontami la tua storia, cioè raccontami la storia. Ecco, questo dovrebbe continuare ad accadere, perché secondo me piano piano, con il proseguire delle generazioni, credo che tutte queste cose vengano dimenticate, e io non voglio assolutamente che vengano dimenticate. Hai detto una cosa giustissima: la memoria non si deve lasciar perdere, anche se in questa società di adesso usa e getta, ma l'usa e getta lascia il suo tempo, invece la memoria continua. La memoria è fondamentale, è essenziale secondo me, e gruppi come voi che portano avanti questo discorso sono decisamente importanti. Bisogna portare avanti questo discorso, non c'è niente da fare. E l'usa e getta non serve, non dice niente, non dice assolutamente niente, esattamente, quindi no. È fondamentale. I giovani devono sapere, capire cosa è successo. Certo. Non è successo poco. No, è successo molto. Si sono sviluppate tante cose. Adesso va fuori la discoteca, qui vai, tiro. Però alla fin fine i problemi bisogna stare attenti, perché basta poco. Per rovinare tutto. No, basta. Ma dai, non siamo così pessimisti. No, siamo ottimisti. I nostri giovani hanno bisogno di sapere, però, che è esistito un passato che potrebbe ritornare, ed è meglio che non ritorni. Esatto. Tutto qui. Esattamente. Però è giusto che lo sappiano. Esatto. Che c'è stato. Esatto. Sono non, si può, di questo. Non si può chiudere il libro. Il libro deve essere sempre aperto, secondo me. Non so se siete d'accordo. Sì, esattamente. Sì, sì. Benissimo, sono le 23.01, siamo a Rock Wave del mercoledì, abbiamo sempre noi stasera che fanno sentire la loro musica sia dal vivo sia attraverso i loro CD. E ricordiamo il nostro staff, in ogni caso Michele Toson, che è il nostro regista, il mitico Michele, poi abbiamo Agostino che cura la macchina fotografica, fotografie, e con Roberto Baldi le telecamere. Abbiamo Alberto Pisco che vi ha contattato, il nostro direttore artistico, certo, che certo. Lo ringraziamo. E abbiamo anche una redazione al femminile, la Patrizia, la Silvia e la Nicoletta, che sono sempre presenti. Non hanno ancora portato le torte, ma può darsi che mercoledì prossimo mercoledì prossimo avremo due bottiglie di grappa. Vedo di là che gesticola. Due bottiglie di grappa. Tre bottiglie di grappa. Allora torniamo mercoledì prossimo. Tre bottiglie di grappa stravecchia nostra. Veneta, che è comunque, grazie a tutti questi che ma grazie a queste voi persone che stanno lavorando per noi. Grazie a voi che siete venuti qua da Reggio Emilia, che ci hanno portato il vostro calore e la vostra memoria, come abbiamo detto. Calore, sì. In tutti i sensi. L'ho visto che non facciamo fatica a portare del calore. In tutti i sensi, calore. Benissimo, andiamo avanti con un altro pezzo da disco stavolta. Da disco, appunto, come ti abbiamo detto prima. Titolo, eh? Me lo ricordo, se ce lo siamo trascritti giusto. Deve essere Fotogrammi, che come ho detto prima è una delle poesie che ha messo in musica Paolo, appunto dalle parole del nostro amico Casolari. Se vuoi presentarla a te, se vuoi raccontare qualcosina. A parte che questa la cantavamo, mi ricordo, sulla macchina ancora prima che la suonassimo tutti insieme, perché questo... Paolo aveva in mente già le parole, no? Cioè, aveva già memorizzato le parole di Casolari cercava di metterci la musica, e allora la canticavamo proprio durante i concerti, durante il tragitto di andare appunto a questi concerti, cantavamo questa canzone. Io già l'avevo imparata ancora prima di... E com'è nata sta canzone allora, Paolo? È nata così proprio, io... Casolari mi ha dato questo testo. Casolari, un vostro sì, amico. Un mio amico. Un tuo amico. Che lavorava in banca, l'ho conosciuto. Sì. In banca. Dove lavorava? In banca. Ah, come me praticamente. E mi ha detto un giorno: sai che io... Dice, tu suoni? Sì, sì. Sai, dice, che io scrivo dei testi, ma ne scrivo tanti. Dice che no, ne ho da darti finché vuoi. Beh, dai, fammi vedere qualcosa. Cosa fai? E appunto mi ha dato una serie di testi che io ho ricavato queste canzoni, una è questa che sentiamo adesso. Molto bene. Diretta rockway.alterista.org, ci potete vedere e sentire, soprattutto vedere anche il tuo piede, hanno visto, eh? Sei ancora gonfiato, non so. Ammazzato una zanzara col piede. No, ha detto un ragno adesso. Allora, un ragno, era un ragno. Col piede? Uno spider. Ok, sentiamo il pezzo allora. Orizzonti sbattuti dal vento, nell'aria un lamento che non ha più età, che non ha più età. Fotogrammi che senza confini ci sono vicini, vicini, sono dentro di noi, sono dentro di noi. Tanta gente vestita di strano, ma troppo lontano da stare in TV. Emozioni che fanno tremare, ti fanno del male e non sei più tu. Basta solo dire di no e il mondo può cambiare. Basta crederci però, anche un sogno può volare. È più facile così, fare finta e non capire. È più facile così, quando un sogno può morire. Strade piene di gente normale che vuole parlare, capire di più, capire di più. Solo pietre sul fondo del cuore che senza parole spingono giù, ti spingono giù. Tanta voglia di fare casino, di stare vicino e dire di no. Tanta voglia di darsi la mano, di andare lontano, lontano da qui. Basta solo dire di no e il mondo può cambiare. Basta crederci però, anche un sogno può volare. È più facile così, fare finta e non capire. È più facile così, quando un sogno può morire. Radio Rock Wave, l'onda del rock. A proposito delle bottiglie, erano due, non tre. Ora sono tre, perfetto. È un giochetto fra me e il regista, perché la prossima settimana ci sarà un gruppo che porterà due bottiglie di grappa stravecchia sua del Veneto. Proprio. Ah. Siccome questo gruppo è venuto anni, mesi fa, portava una bottiglia di grappa, ha avuto un grande successo. Allora abbiamo una richiesta. Abbiamo finita tutta, mi diceva il regista. Invitiamoli alla svelta perché abbiamo finito la grappa. Esattamente. Allora abbiamo chiesto a questo gruppo di portarcene un'altra, e ben contento verrà a portarci un'altra con un produttore americano. Non so, forse c'è un collegamento tra la grappa nostrana e il produttore americano. Dopo vedremo. Vabbè, ci farete sapere. Dai. Ma certamente ti diremo via Facebook attraverso Alberto. Vi seguiremo anche noi da casa. Ecco, un bel export. Ecco, esatto. Allora, facciamo adesso il giochetto: i 5 dischi da portare su una deserta, però stavolta li riduciamo. Ne facciamo solo 2 perché il tempo è poco e io voglio far sentire la vostra musica, che è ben più importante dei miei dischi. Poi i dischi di riferimento vostri sono importanti. Paolo, vuoi cominciare te, che sei il decano del gruppo, se mi è consentito? Sì. Phil Collins. Phil Collins, facciamo quello solista, quindi The Air Tonight, quelle sì. cose là, con i Genesis, lontano dai Genesis, lontano dai Genesis, come solista praticamente. Sì, come solista, sì. Come ne pensi dell'apporto che ha dato ai Genesis? Qualcuno ha detto che ha rovinato il gruppo, qualcuno ha detto che è stato bravo. Vedi che sei un batterista. No, non ha rovinato il gruppo. quello. no, anzi, è stato... Cioè... Ecco, Phil Collins ha dato molto ai Genesis. Senti sottofondo. Io ho sentito i Genesis a Reggio Emilia. Li ho sentiti nel 70, 71, 70. C'era già lui? Sì, lui era, aveva appena iniziato. C'era anche Peter Gabriel. C'era Peter Gabriel, esatto, sì. Che poi se n'è andato. Lui partiva, che suonava in piedi insieme a Peter Gabriel, suonando una cassa che aveva. Ah, tu che sei un esperto, sì. Ste robe le hai capite subito. E poi una voce incredibile. Esatto. Insieme a Peter Gabriel, perché poi andò alla batteria, era un batterista eccezionale. Comprende, i Dixie ha fatto delle cose straordinarie. Ma anche lì, con Genesis, è stata una cosa... Io che sono un io sono del partito che, secondo me, posso dirlo, ha rovinato i Genesis con le sue introduzioni. Che io i Genesis li fermo a The Lambs Lounge Down on Broadway, cioè l'ultimo disco con Peter Gabriel. Anche se ci sono due o tre dischi dopo, molto belli, The Window of Wizardry e altre cosette fatte assieme a Phil Collins. Sì. Lo identifico così, è una questione solo personale, chiaramente. Tu l'hai visto dal vivo, è un grandissimo musicista. Ma li ha rovinati in che senso? La sua voce non è la voce di Peter Gabriel. Vabbè, sì, questo. Beh, Peter Gabriel, Mauri, cioè, è unico anche adesso. Ma come modo di approntare la band Genesis? L'ha approntato. Siamo d'accordo con te dicendo che lui è avanti sempre, avanti anni luce, avanti tutti. Sono d'accordo, insomma, ecco. Cioè, lui quando dice qualcosa sembra la novità, ma lo sai in anticipo già. Certo. Però va bene che Peter Gabriel con The Lambs Down on Broadway ha fatto un disco solista praticamente, Genesis, okay, non esisteva. Però io sono un po' più giovane, io ho iniziato ad ascoltare Genesis da Second Out, da Live, da Live, dove ci sono dei brani stupendi, Saps Ready, sì, certo. Fifth of Fear, cioè, e per me credo che quel connubio lì, soprattutto questo live con Chester Thompson e Phil Collins all'unisono. No, è un grandissimo. sì, sono d'accordo. Che ci sia. È un grandissimo. Tony Banks, le tastiere. È un grandissimo musicista. Ma è questione emozionale, Paolo. C'è niente da fare. Ora, Phil Collins è il primo. Il secondo disco che tu sceglieresti per portare su un'isola fantomatica, deserta, che non è quella dell'avventura dell'Isola dei Famosi, è l'Isola di Rock Wave, che è ben diverso. Dimmi. Beh, posso scegliere un disco di Sempre Noi? Ma certamente, perché no? Chiaramente sì. Quale di Sempre Noi? Che disco vorresti scegliere? Io porterei di Sempre Noi. Aspetta. Porterei. Oh, ce ne so. Mi piace. Porterei il CD. Ecco, tutto il compendio. Poi uno se lo sceglie. Tutto il compendio. Quello che vedi. Certo, tutto il compendio del vostro gruppo. Benissimo. Base all'orizzonte. Esattamente. Ce la fai, Spider of Mars, a venire al microfono così parli? Sì, esatto. È un po' infortunato stasera. No, allora io passo da un estremo all'altro. Vai. Il primo disco porterei a Kind of Blue di Miles Davis. Allora dobbiamo tutti sollevarci in piedi qua. Sì. Parliamo di Miles Davis. Ci alziamo tutti. E poi dopo passerei a Back in Black degli AC/DC. Ah, che bello. L'hai visti recentemente? Non li ho mai visti dal vivo. Non ho visto molti DVD, però... Cioè, secondo me è il disco rock per... Ma come... Sono non so quanti anni che stanno insieme e lui è sempre con queste braghe corte quando suona. Però. Sì, vabbè, adesso forse dopo 30 anni che suonano saranno anche un po' ripetitivi, però quel disco lì, cioè veramente... Beh, quello è un capolavoro assoluto. Ha venduto... No. Dimmi. No, tra l'altro, dopo Thriller di Michael Jackson è il secondo disco più venduto. È vero, volevo dire proprio questo. È verissimo. Io ho visto nelle classifiche americane di Billboard, nei dischi, sai, di dischi storici, è sempre nelle prime posizioni nonostante tutto. E poi sono ritornati in classifica in tutto il mondo con la colonna sonora adesso. Cioè, sì, io onestamente non è che compro tutti i dischi, no, però escono, però cioè, Udine, quando sono venuti a Udine hanno fatto un successo strepitoso. È sempre, cioè, uno va a vedere gli AC/DC, è sempre un gran successo, insomma, esattamente. E quindi li hai scelti tutti e due, tocca a te adesso. So, Paolo mi ha fregato l'idea del disco di Sempre Noi, allora lo sostituisco con il Like a She Never Did della band dove suonava prima Paolo. Bene. Paolo e Chris, che lì c'è su un po' di canzoni di quelle che mi sono veramente piaciute sempre molto, dalla bambina portoghese, Asia. Bella, bella bambina portoghese, era un bellissimo pezzo. La collina, dei pezzi che veramente in quel periodo Augusto aveva una voce secondo me meravigliosa e loro avevano un'energia straripante. Certo, anche Guccini aveva un'energia straripante. E Guccini scriveva, ha sempre scritto dei gran bei pezzi, delle gran belle canzoni, dei grandi testi che comunque Augusto ha sempre saputo interpretare magnificamente e loro hanno sempre suonato secondo me in maniera... sublime, perché veramente quello che mancava forse a Guccini era proprio la musicalità nei brani, e loro l'hanno arricchito veramente. Esatto, lui era un folk singer e basta praticamente. Io ricordo l'arrangiamento meraviglioso che Augusto e i soci hanno fatto della bambina portoghese. Non so cosa ci hai messo te in quell'arrangiamento, era meraviglioso, un arrangiamento. Ho messo la batteria. Era una cosa meravigliosa. Ti ha messo le braccia, le gambe, ho messo tutto. 20 anni di fisico. In 20 anni ho messo tutto me stesso. Esattamente. Poi quello è un arrangiamento straordinario. La canzone Bambina portoghese nell'Amo Radici è fatta in una maniera, fatta da Augusto e i soci, te compreso, era tutta un'altra e poi cosa. Poi c'era anche un Gio Mitraglia lì. C'è Gio Mitraglia, un altro pezzo molto interessante. Quelli erano Augusto D'Aoglio e i suoi amici. Esattamente, Augusto D'Aoglio e i suoi amici. Il primo pezzo. Il secondo prendo su un disco di De André che secondo me. Ma facciamo che prendo un po' i dischi di De André e scelgo delle canzoni, li metto nel computer, che adesso si può fare il disco originale nel computer, e mi faccio un bel MP3. Sì, me li metto tutti su un bel MP3 portatile. Con vari pezzi, perché veramente di De André mi piacciono tutte, le conosco tutte, e per me è un grande poeta della musica italiana. Sai cosa a me piace di De André più di tutti gli altri? La buona novella. La trovo uno dei dischi più belli mai scritti. E ce ne vai, Maria, fra la tua gente. È una cosa meravigliosa. La buona novella è un disco che mi è piaciuto sempre. Tutte, come direbbe. È bravo. No, mi sono appassionato. Racconto sempre questa cosa. Che io quando ero militare, ero a Maniago. Sì, vicino a Udine. Dov'è sì. Maniago? Vicino Pordenone. Udine, sì. Pordenone, okay. Pordenone, sì. E ascoltavo in quel periodo Guccini, De André. E di riflesso, insieme a Guccini, c'era questo live che avevano fatto i ragazzi. Perfetto. Guccini e i è un disco, Guccini e i Nomadi, perciò si può dire è un disco. Il titolo è il disco. Appunto seguivo un po' di riflesso anche questo gruppo di questi ragazzi che quell'estate, quella primavera dell'89 vennero proprio in Piazza Maniago, la città dei coltelli, a fare questo concerto, e io vidi per la prima volta GPL, Chris, Augusto e proprio in piazza qui a Maniago, e dico sempre questa cosa, che c'era questo collegamento appunto tra, poi dopo ritrovarmi nel 2002 a cantare insieme a questi ragazzi, per me, io lo dico sempre, io ho realizzato il sogno della mia vita. E cosa è venuto fuori in quel momento lì a Maniago, che poi dopo ci sei ritrovato con loro in gruppo, che scintilla è scoppiata? Non lo so, io ascoltare Augusto, perché Augusto era un gran narratore durante i concerti, oltre ad avere una voce che secondo me pochi... Era la voce e basta. Era la voce, difatti, Augusto era la voce. E, io mi sono subito appassionato a questo gruppo, mi sono avvicinato così, ho incominciato a seguire appunto questo gruppo. E ho abbandonato tra virgolette diciamo così De André e Guccini mi sono avvicinato un po' a loro, ho seguito alcuni loro concerti, e veramente quando nel 2002 io so che esistevano queste due situazioni, Sempre Noi e quell'altro gruppo che ha mantenuto diciamo il marchio, certo, e trovarmi poi nel 2002 a cantare insieme a Paolo e Chris, io lo dico sempre, io sto vivendo un sogno. Spero che nessuno mi svegli, perché questo sogno è bellissimo e voglio viverlo fino alla fine, ecco. Certo, bellissimo. Tocca a te. Beh, io ormai ti ho già anticipato che... Sì, ma gli ascoltatori non lo sanno adesso. No, ti ho anticipato che è uno dei gruppi che ho sempre seguito fin da ragazzino, erano i Genesis, pertanto ho Second Out sia in versione vinile doppio e sia anche in CD. E poi, cosa c'è tra il vinile e il CD? Che differenza c'è secondo te? Beh, io credo che l'ascolto sia un'altra cosa, insomma. Cioè, in ogni caso io Adesso purtroppo non si può più ascoltare con gli impianti di una volta, cioè quelli che insomma erano degli impianti, quelli vintage, esatto, vintage, dove magari il vinile si sentiva anche il era bello così. Adesso insomma niente, il CD è naturalmente tutto digitale, perciò come vi ho detto, questo disco è un AAD, cioè analogico in registrazione, analogico come editing e poi digitale come stampa. E poi sì, insomma, c'ho un disco dei Tears for Fears dal vivo dove c'è Woman in Chain, per me, che dura penso 11 o 12 minuti, che è una cosa pazzesca, dal gran che è bello, e credo che siano i due dischi, sì, che poi tra l'altro ho comprato adesso da poco tempo il CD, che è un Greatest Hits, e niente, questi e due sono i due dischi. Ma perché mi ero avvicinato quando uscì questo brano The Woman in Chain, e lo fa sentire in sottofondo, sì. Esatto. No, questo qua non è The Woman in Chain. Sì, ma è sempre Tears for Fears. No, questo è Tears for Fears, ma non è The Woman in Chain. Sì, è lo stesso, è sempre Tears for Fears. Mi sono piaciuti fin dall'inizio, e tra l'altro ho visto anche un concerto a Milano, ma adesso non ricordo neanche quanti anni fa, perché se ne sono passati tanti. Questi due sono i due gruppi che ho sempre così un po'. Poi è chiaro che la musica, per quello che riguarda la musica italiana, ho sempre seguito Guccini, anche io De André, insomma, cantautori in genere, Pierangelo Bertoli, che abita a pochi chilometri da casa mia. Ma voi siete tutti di Reggio Emilia praticamente? No, io sono di Scandiano, di Reggio Emilia. Correggio. E no, sì, appunto, 9 chilometri, ero sempre a casa di Pierangelo. Allora, insomma, le sue canzoni le ho ascoltate da piccolo, ma anche da grande, perché dopo l'ho conosciuto, e così, insomma. Ho capito. Questi sono i miei gusti. Benissimo. Ok, sono le 23:20, non so che scaletta forse volete fare? Volevo prima delle canzoni, volevo ringraziare Miria dalla provincia di Mantova e Silvia di Marghera, che ci stanno ascoltando da casa. Hanno detto che insomma li stiamo emozionando, bene. Perciò speriamo di continuare così. Bene, una cosa di emozionare tante persone, insomma, di piacere, ecco, soprattutto a chi ci sta seguendo da casa. Benissimo. Cosa dite? Facciamo un pezzo live? Siete pronti? Sì. Facciamo un pezzo live? Sì. Facciamo un pezzo live. Che titolo è? Fuori sintonia. Questo dobbiamo dirlo, perché abbiamo parlato di brani che abbiamo proposto per Sanremo, e anche questo brano qui, Fuori sintonia, è uno dei brani che abbiamo proposto per Sanremo. Le parole sono di Pierangelo Bertoli, era un brano che aveva lì nel cassetto e la sua famiglia ce l'ha donato. Era già parole, musica quasi pronto, noi come sempre l'abbiamo un pochino adattato ai Sempre Noi, allo stile dei Sempre Noi. E niente, lo facciamo sentire unplugged, però ricordiamo sempre agli amici che lo possono ascoltare anche acquistando un CD, insomma, anche perché di questo c'è anche il video, perciò per chi si vuole informare sempre nel nostro sito www.sempre.noi.it. Esattamente. Fuori sintonia. Ok. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Visi confusi nella sera, nomi che non ricordo più, scontri sull'ultima barriera, quanti sogni finiti a testa in giù. Lampi di luce prigioniera, ma il nemico adesso non c'è più. Sulla strada che va e attraversa città, hai lasciato gli sbagli dell'età, le illusioni che tu seminavi sulla via, tutte fuori sintonia. Oh, oggi il vento soffia piano, sale la nebbia intorno a me. Ora sei solo fuori in mano, ormai steso su un'erba che non c'è. Guardi il mondo di lontano e il pensiero rimane chiuso in te. Vecchi sogni, pazzia, figli della tua utopia, dove un mondo migliore sboccerà, dove l'alba per te sarà l'alba anche per me, ma con più poesia. Sogni, pazzia, figli della tua utopia, dove un mondo migliore sboccerà, dove l'alba per te sarà l'alba anche per me, ma con più poesia. Ma con più poesia. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ladies and gentlemen, sempre noi. Avete appena suonato. Mi avete beccato che stavo bevendo. Vedo anch'io stavo. Ma vabbè, che lo vedono perché dopo. Si stanno. Certo, vedono tutto e stai bevendo. Cosa c'è di male? C'è niente di male. Poi se mi sentono, no, non sta mica bene in diretta. Non, va bene. Non c'è niente di male, stai bevendo. Hai un po' di sete, mi pare giusto. Bello, bellissimo pezzo, bellissimo pathos. Posso dirlo così? Sei d'accordo? Sì, poi dopo se capiterete anche a qualche nostro concerto. Esatto, magari. Parliamo un momento di vostri concerti. Che atmosfera si respira ai vostri concerti? Paolo, dai. Bella, bella, una bella atmosfera. Ieri sera abbiamo fatto un concerto bellissimo a Carpi. A Carpi, a Modena, insomma, praticamente. C'era tantissima gente. Calcoliamo sulle 2500 però, persone. Sì. Tutti in piazza, chiaramente. No, è un festival del PD. Un bel posto, perché è un parco collina con un bel palco allestito bene, con un bel impianto, insomma, molto bello. È stato molto positivo, insomma. Concerto bellissimo, sì. Quindi c'è stato tanto trasporto del pubblico. Sì, trasporto del pubblico anche nostro. Anche vostro. Che pezzi avete fatto? Andare un avere. Una scaletta. Abbiamo fatto la scaletta più o meno di pezzi vostri con un pezzo che si chiama Ma che mondo è? Sempre parole di? Sì, Casolari e musica di Lancellotti. E poi da lì Vita mia, credo. No, Mamma Giustizia. Vuoi sapere la scaletta? Lui c'ha la scaletta? Lui c'ha tutto. Mamma Giustizia, sì, Vita mia. Poi Canzone per un'amica, La seconda era Mamma Giustizia, la terza Sì. Ah, ma bella lunga, un sacco di pezzi avete fatto. Eh beh sì, oltre due ore. Altre due ore. Però. Ragione, vitamina c'era però. Oltre due ore di concerto. Vitamina quando ci vedo è inutile che lo guardi. Vabbè, comunque è sempre un misto, un misto di cose vostre, sì, però sì. Cose vostre sono importanti, dovete fare sentire le cose vostre. Infatti, assolutamente no, facciamo no. Soprattutto anche perché i Sempre Noi non sono un gruppo di cover. Esatto. Stiamo sempre dobbiamo a specificare questo. Questo che è una cosa molto importante, perché tanti pensano andiamo ad ascoltare i Sempre Noi perché no. I Sempre Noi, come abbiamo detto, come ha detto Paolo, sono nati nel 90, quindi 20 anni fa, perciò sono già 20 anni che ci sono e hanno una storia loro da raccontare con delle canzoni loro, che è un diciamo sempre un filo sottile che collega il passato al presente. Difatti nei nostri concerti si possono ascoltare le canzoni già conosciute che hanno suonato per 20 anni loro insieme ad Augusto, e le canzoni nuove che sono tipo quelle che abbiamo suonato qui Unplugged, che stiamo suonando stasera e che abbiamo fatto ascoltare per radio. Perciò diciamo c'è anche questa cosa interessante, come dico sempre, che per non dare sempre le solite minestre riscaldate con queste cover, sempre le canzoni che ormai conoscono tutti, c'è anche qualcosa di nuovo da ascoltare, certo. Di interessante, perché come diceva il caro buon vecchio Ago, insomma, per non appunto continuare a sentire delle minestre riscaldate, bello, e forse la cosa interessante è anche ascoltare qualcosa di nuovo che appunto può arricchire diciamo ogni persona che viene a un nostro concerto e sente appunto le nostre canzoni nuove. Ma è giusto che la puoi mettere via. Sì, ma è giusto che sia così. Maggior parte devono essere pezzi vostri, chiaramente, secondo me. Maggior parte. Dopo, se c'è un collegamento, ci può essere, per carità, però fa parte del bagaglio tuo, sì, di una volta. Fa parte sempre della storia della di Paolo Cris, perché loro comunque l'hanno vissuta. Però, indipendentemente da questo, le canzoni vostre siete sempre noi e basta, non ci sono problemi. E il problema è sempre quello, sai com'è? Quando vai a fare un concerto dal vivo, se hai le radio che ti aiutano e che suonano questi dischi nuovi tuoi, non è un problema quando li vai a fare dal vivo, insomma. Ma quando proprio non li trasmettono, è dura buttare dentro le canzoni, perché la gente le ti guarda, le ascolta, non le conosce. Come la maggior allora parte dei gruppi nuovi fare che nascono. Una mescola, no? Di vecchio e di nuovo, di vecchio e di nuovo. Sì, poi pian piano... Ma io credo che adesso ci sia una forte tendenza anche. Io ho ascoltato anche ogni tanto, mi capita di ascoltare qualche radio hit molto famosa, insomma, diciamo nazionale, e non anche regionale, diciamo dalle nostre parti, abbastanza importante. Ho sentito che sono negli ultimi anni c'è stata una tendenza a ritornare un pochino, cioè io credo che se non torniamo un pochino ad attingere in, appunto negli artisti che poi prima nominavamo alcuni noi mentre facciamo questa discussione sui discorsi dei due dischi che piacciono a ogni componente dei Sempre Noi, se non riusciamo ad attingere a quella musica lì facciamo fatica ad andare avanti, perché oggi ok esce una hit e viene bruciata nel giro di pochissimo tempo, se non diventa il tormentone estivo, no? Il famoso tormentone estivo, dopo scompare nel nulla, mentre invece ci sono delle cose che rimangono e sento questa tendenza nel far riascoltare, oppure avere una zona, oppure casomai mischiare un po' le carte, cioè vabbè i pezzi hit perché bisogna farli sentire, perché la radio deve avere l'audience e deve avere la botta, però anche quello che invece era il passato. Secondo me questa è una cosa molto importante e giusta. Credo che ci vorrebbe anche un po' più spazio, diciamo, a quelli che fanno musica di un certo tipo, cioè musica più ballad, più diciamo un po' più, non dico improvvisata, però un po' più di nicchia, chiamiamolo così. Non è il caso nostro, qui abbiamo molto spazio per fare queste robe. Beh, abbiamo capito. Infatti. Non è il caso. E tu hai detto una cosa: sì, fanno sentire i hit del momento, ma non è sempre detto che la radio aumenti l'ascolto facendo sentire sempre gli hit del momento. Questo non lo so, perché non seguo diciamo gli ex poll. Quanto durano gli hit del momento? Un mese, 10 giorni, 20 giorni? Beh, sai, a volte ci sono dei tormentoni. Ce n'è uno di un belga, bellino però. Sì. Quanto dura? Sì, questo francese. Questo francese belga, sì. Quanto dura? Ma non lo so, probabilmente durerà un'estate, una stagione, però sarà il più ballato e il più seguito, diciamo, dagli ascoltatori. Che poi dopo un po' dopo dicono: beh, però adesso basta, perché poi esatto. Quando lo fanno sentire centinaia di volte al giorno. E poi non è detto che la vostra musica non si possa parlare, perché no? No, assolutamente, noi cerchiamo di farli parlare. Davide è bravissimo, noi facciamo un repertorio dove in molti pezzi. L'altra sera abbiamo suonato Melzo, intanto che suonavamo ballavano, c'era la pista da ballo, c'era la gente che riusciva a ballare sulle nostre canzoni. Infatti abbiamo fatto dei pezzi abbastanza movimentati, ma ballavano ugualmente. Vuol dire è bello, bello, vuol dire che c'è un feeling, un pathos, un riferimento, un collegamento a queste cose. La musica è per tutti, la musica è di tutti, e la musica sarà sempre di tutti. Non ha confini la musica, è l'unica cosa che non ha confini, secondo me. Sì. Tante altre cose hanno i confini. Cosa dici, Paolo? Sì, sì, è vero. Ce n'è uno alla quale purtroppo nessuno di noi può. Quello, lo siamo per. Ho capito, Michele. Sì, arriverò anche io là. Cosa mi fa? Vedo dalla regia che ti fanno degli strani gesti. Sono molto gentili, sì, sono molto gentili. Allora, cosa dite, il pezzo che era in scaletta adesso da disco, mi pare? Sì, ti ricordi il titolo? Ma credo Momento Perfetto, vediamo se mi confermano. No? Il numero 2. Yes, sì, Momento Perfetto. Number 2. Momento Perfetto, Momento Perfetto, allora il momento è perfetto. E anche la title track. Ma sì, ha dato il titolo al disco anche questa, perché... Come ti ho detto, sono state due o tre le volte in cui abbiamo provato a partecipare a Sanremo. Sì. E anche questa canzone, come hai detto tu, che hai visto che tra i collaboratori di questo disco Momento Perfetto c'era un certo Max Varini. Esatto. Massimo Varini, che come ha detto Paolo, è stato un suo allievo. Praticamente sì, la prima chitarra gliela messa, possiamo ripetere adesso. gliela messa in mano lui, praticamente la chitarra Massimo Varini. Sappiamo dove è arrivato Massimo Varini, insomma. Paolo è molto orgoglioso di questa cosa, perché insomma Varini è un turnista, suona con tantissima, veramente tantissima gente. E, tra l'altro, ha partecipato a Sanremo, appunto, ha collaborato per la canzone di Sanremo con Jolly Tonno e Lola Ponce, che ha vinto, perciò ha vinto, è uno dei vincitori di Sanremo. Certo. Con noi ha lavorato prima di quella canzone lì, non abbiamo avuto questa fortuna di poter partecipare a Sanremo, perché chi lo sa, magari avremmo potuto vincere prima noi con una canzone, certo, appunto, come si dice, come si può dire, arrangiata da Massimo Varini. Ma secondo te le porte di Sanremo sono chiuse per sempre noi, secondo me, no? Ma non so, noi abbiamo perso un po' la fiducia. Abbiamo pensato che tanto è bello andare in giro a suonare, stare a contatto con la nostra gente, con i nostri amici che comunque su internet veramente in questo periodo ci scrivono, ci messaggiano, ci vengono a trovare, c'è Facebook, c'è veramente, ci sono tantissimi canali dove ci raggiungono sempre e ci vengono veramente a trovare poi fisicamente, perciò questo è molto bello. Vengono da tutta Italia e a noi quello che maggiormente ci interessa, appunto, è questo, poi avere il supporto dei nostri fans che non vedono tanto bene una partecipazione a Sanremo, anche se per me è una vetrina molto importante. Sì, vetrina molto perché importante. Poter passare di lì, sai, sempre noi. E via. Non sai chi sono, così parlandone adesso. Però sono quelli che sono stati a Sanremo. E poi dopo viene tutto il resto, capito? Certo. Hanno la storia, alle spalle hanno anche, insomma, questo, quello e quell'altro. Sanremo è importantissimo, però, insomma, vediamo se magari prima o poi capita. Riusciamo a entrare nella famosa manica di qualcuno. Ok, Momento Perfetto allora. Sì. Ed ora dimmi che non ce la fai a stare in piedi, metti fuori tutto ciò che hai per stare in piedi, come l'aquilone quando sfida il vento, come l'orologio quando insegue il tempo, un giorno qualunque vivrai il momento perfetto. Ti dico ora come si fa a stare in piedi, questione di tempo e buona volontà per stare in piedi, la voglia di scappare dentro gli occhi tuoi e capisco che niente è come tu vuoi, il senso della vita è di cercare, sai, dove nessun altro ha guardato mai, un giorno qualunque vivrai il momento perfetto. Perciò vivi la tua vita in pace al mondo, fino a quando puoi, corri questa vita. dunque vivrai il momento perfetto. Ed ora dimmi come ti va, lì da solo in piedi. Sembri proprio una rockstar da solo in piedi. Con le tue scarpe come due vele che ti portano lontano finché vento ce n'è. Con quella forza che tu solo hai, che tutta la gente ti invidia, lo sai. Così vivi la tua vita in faccia al mondo, fino a quando puoi corri questa vita. E se ti va, riposa all'ombra, da ogni sbaglio crea un'opportunità, crea un'opportunità. Fai del tuo meglio, vivi la tua vita in faccia al mondo, fino a quando puoi corri questa vita. E se ti va, riposa all'ombra, da ogni sbaglio crea un'opportunità. Fai del tuo meglio, prendi la tua vita così. Un giorno qualunque vivrai, un giorno qualunque vivrai, il momento perfetto, il momento perfetto, il momento perfetto, il momento perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, come lo dici in caldo in Che è un Kels? No, perfetto. Ma io non sono modenese né reggiano. Adesso facciamo un discorso, dice Paolo che è carpigiano. Vai. A che Kelt? No, io sì. A che Kelt? Io invece che sono reggiano dica che Kelt. Io non lo so, non capisco più. Dillo in milanese. Io sono nativo di Melzo, in provincia di Milano. Vivo a Piacenza, vado in giro con loro che parlano dei dialetti reggiani, modenese e via. A che un Kelt, non so però che lingua sia. A che un Kelt. Pensa che a coraggio dicono, quando hanno sete, dicono a gom sei. A gom sei. Invece a carpi dicono a gom sei. Ah, vedi. Sembra un sei e il sei. Quanti chilometri di vista da Carpi, da Correggio? 6 chilometri. Sei, quindi. Una cosa incredibile. Vabbè, ma c'è una differenza anche, appunto, sabato siamo in concerto a Fellegara di Scandiano, che è completamente attaccato. Io abito appunto a Scandiano di Reggio Emilia, è completamente attaccato, però a Fellegara sono più sboccalati, come diciamo noi. Cioè, a Scandiano dicono magari, non so, dottor, invece a Fellegara dutaur. Ah, cioè, proprio cioè è un'apertura. Perciò già è bello vedere proprio che da dopo 10 chilometri cambia il dialetto. Ma anche qua, sì. Anche qua Padova ha un dialetto, Vicenza è un altro, provincia di Padova un altro dialetto, Venezia è lo stesso. Sì, cioè, sì, sono Stregheta, È Stregheta, sì. Più veneziano quello. Più veneziano. Più veneziano. Beh, visto che probabilmente ci ascoltano anche nella zona della laguna veneziana, certo, questa sera, allora facciamo un saluto anche ai veneziani. Ecco, esatto, i veneziani. Vogliamo vedere i Pink Floyd. Vogliamo vedere i Pink Floyd. C'era una pronta per tutti. E quello Scardi dei sì, hanno trovato un successore con quel pezzo là. Beh, sai, Mauri, noi poi durante i concerti ogni tanto inventiamo, perché ogni concerto è diverso dall'altro. Noi siamo un po' desaparecidos, siamo dispersi. Soprattutto scaletta molto variabile, insomma, praticamente. No, ma no, scaletta rimane quelle che in alcuni pezzi magari ci divertiamo a giocare un po', nasce un pezzo, ne creiamo un altro, uno intona una cosa che quell'altro di durare 3 minuti, magari un pezzo ne dura 6, quell'altro monta su, si aggiunge qualcosa, improvvisato, sono le varianti a tema, improvisate, come sta facendo adesso il nostro The Voice, il nostro beh, non in tutti, perché vabbè, però ci sono quei momenti musicalmente improvvisi di Paolo, improvvisi nel concerto, Paolo, sempre. Io sono 20 anni, sono 40 anni che improvviso. È un inventore. Anche se lo stesso pezzo. Ah, ho capito. Cioè, anche per dire, non so, suono Difeso il mio amore la sera prima, la sera dopo, è uguale, ma non è uguale. Perché un qualcosa in più, un qualcosa in meno, oppure. E perché, Paolo, ti faccio questa domanda? Ho difeso il mio amore, che era un pezzo di Moody Blues. Come mai l'idea da un pezzo di Moody è stata di Augusto? Ma perché una volta c'era questa moda di prendere il successo in, per dire, in Inghilterra e lo rifacevi in Italia con un testo. I vostri amici, l'Equipe, hanno fatto più di una volta questo discorso. Ma anche i Nomadi. Anche i Nomadi, sì, sì, d'accordo. Anche abbiamo fatto... Sì, ma il pezzo di Moody, White Night City, è un pezzo difficile da farsi, molto complesso, articolato, poi quella lunghissima nota finale, eccetera. Tu dici? Night White City, il rifugio del mio amore, quello di Moody. Ah, sì, sì, di sì. Moody, esattamente. Che era da Days of Future Past, il famoso album. Sai che i Moody hanno inventato il cosiddetto album concept senza... c'è un filo diretto praticamente. No, Mauri, era una preparazione. Era anche la casa di scuola. Era una preparazione estrema. Ma io ho sempre amato il concept album. I Moody Blues è un gruppo che amavo particolarmente. Ricordo che Augusto, io ho sentito un'intervista sua, che lui diceva una cosa giusta, e tu me lo puoi confermare, che Augusto sceglieva sempre le cover un po' particolari. Sì. Io ricordo una cover bellissima di un pezzo di Trokes. Sì. Che tu ti ricordi sicuramente. È proprio quello. Era un pezzo di droga che parlava del nucleare. Una volta, sì, era una cosa una pioggia d'atomi. Don't touch. Era un pezzo favoloso. Cioè, cercare la cover particolare era una caratteristica di Augusto che nessun altro aveva. Sì, sì. Perché gli stessi Equipe hanno preso un pezzo dei Rolling, hanno preso un pezzo di gente magari un po' più conosciuta. Esattamente, mentre i Rolling, per esempio, Augusto ha un pezzo. Augusto andava a ricercare invece delle cose. Ha preso un pezzo meraviglioso di Elton John, da un album meraviglioso. Alla Bianca, anche Season. Sì, Sixteen Years Old, da un primo album di Elton c'era John. C'era anche Season. C'era anche Season, è una cosa. Tutti i pezzi da Season era tratto da un album abbastanza particolare di Elton John, che non era neanche della collezione vera e propria di Elton, era un po' fuori. Sì, sì. Però come la facevano loro, The Six Years On, è quello, a me era molto più bella, la Bianca è molto più bella di quella di Elton John. Io sono completamente d'accordo con te. La versione di Paul McMaster sull'album di Elton John era bella, ma la versione fatta da Paolo e da Augusto era tutta un'altra cosa, secondo me. Ritorniamo indietro. Vabbè, torniamo in sempre una parentesi di cultura, facciamo come Piero Angela in Quark, Super Quark. Parliamo un po' alle origini della musica, le origini della musica. Esatto, parlare bello di parlare di memoria, le memorie bisogna le memorie prima, giuste, come abbiamo detto prima, anche per andare avanti bisogna comunque avere delle fondamenta. Si è appassionato di Eric Burdon. È vero. Aveva la sua foto nel portafoglio. È vero, io ho letto parecchie cose. Animals, esatto. House of the Rising Sun, che hanno fatto la casa del Signore, l'ha fatta chi l'ha fatta? Del Sole. Chi l'ha fatta? Tutti. Ma questo era un traditional che tu ben sai, Animals hanno ripreso grazie alla voce nera di Eric Burdon. È stato lui che ha fatto tutto. Infatti nei concerti, molte volte quando facevamo i concerti, lui alla fine improvvisava questo. E voi, sempre noi, fate qualcosa di blues nei vostri concerti? Sì, sì. Statale 17. Ah, Statale 17, è vero, sì. Che è un pezzo blues a tutti, sì, a tutti. Beh, poi anche Ma che mondo è un blues. Sì, abbastanza blues. È un blues. È un giro in do. Sì, però è un blues, diciamo, fatto... No, il blues padano. Blues padano. Non ha le 12 misure proprio. Anche se no. Però è molto. C'è un po' anche noi, come suggerisce Napo. Noi. Giusto, esatto. È di blues anche quello. Anche se Statale 17 hai detto una cosa giusta. Anche se, 17 anche è proprio... se Francesco è di Padana, Pavana mi pare. Pavana. Ma è padano anche lui. Sì, beh, sì, è nel confine tra provincia di Modena e la provincia di Bologna, nell'Appennino. Appennino tosco-emiliano. Vive in esilio da tempo. No, non è più. Si nasconde. Si nasconde. Adesso ha 70 anni, quindi. Una volta io l'ho visto che aveva sempre una bella riserva di Sangiovese, adesso acqua minerale. Che tempi cambiano. Anche voi avete Sangiovese pronte? Avete Sangiovese anche voi? No, noi siamo un gruppo di puri. Ah. Vabbè. Noi non beviamo mai né prima né dopo. Vabbè, qualche acqua volta. E basta. Sempre acqua. E noi ci dicono un gruppo anomalo spesso, perché dicono sempre che praticamente di solito i gruppi suonano e poi dopo vanno a mangiare. Invece noi mangiamo prima e poi suoniamo. perché giustamente, come dice Paolo, dice: oh, 2 ore sul palco. Dopo io consumo, io devo mangiare. Giusto, hai ragione. Quindi si mangia prima. Che pezzo sentiamo adesso dal vivo? dal vivo. Beh, dillo tu, visto che dimmilo, devi dirlo a te, no, perché il pezzo è scritto da te. Beh, vabbè, no, non è scritto totalmente da me. Diciamo che Guerino Di Tullio, nostro caro amico molisano, mi ha fatto pervenire questo testo, che più di che, una poesia. Più di una poesia, sì. E io una sera, devo dire, 5 minuti ho messo giù la musica, naturalmente cercando di modificare il testo per renderlo, come si dice, in metrica, adatto alla musica. Certo. È venuto questo brano che adesso facciamo. Io l'ho trovato una bella ballad, posso dire questo? Beh, lo puoi dire, sì? Ecco, benissimo, una bella ballad che mi ha conquistato letteralmente. E chiaramente, come avevo detto prima, sul programma Non Solo Acustico andrà in onda più tardi. Mm-hmm. Probabilmente a Compute verrà ogni mese, cioè per un mese consecutivo, verrà fatto sentire i nostri ascoltatori. Grazie, e quindi mi fa piacere perché... Adesso lo sentiamo però live, assolutamente, live. Alle 23:48. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Dammi la tua mano, restami vicino. Nel giorno che passa e va lontano, conto le ore pensando al tuo amore, all'immagine che ho di te. Ieri il buio rubava la mia vita, ma oggi vive in me una luce infinita. Come un bambino stringo a te le mie parole ed il mio cuore batte carico d'amore. Se chiudo gli occhi il tuo pensiero mi accarezza la mente, e tra gioia e dolore io sorrido dolcemente, io sorrido dolcemente. Ho davanti a me i tuoi occhi da guardare, e in lontananza, se mi giro, vedo il mare. Nel mio cielo io vedo solo il tuo viso, riflesso nella notte come una stella o un sorriso. Se chiudo gli occhi il tuo pensiero mi accarezza la mente, e tra gioia e dolore io sorrido dolcemente, io sorrido dolcemente. Strada che ho voluto per camminare in un mondo che non ho avuto. Andiamo via insieme tenendoci per mano, andiamo via insieme come il volo di un gabbiano. Se chiudo gli occhi il tuo pensiero mi accarezza la mente, e tra gioia e dolore io sorrido dolcemente, io sorrido dolcemente. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, io pensavo che ci fosse stata una reprise, vabbè che Paganini non ripeto, una reprise dell'ultimo ritornello. Purtroppo non c'era. Mi piace proprio così tanto. Sì, mi piace molto, praticamente. Io pensavo che ci fosse stata una reprise, visto che Paolo dirigeva l'orchestra, pensavo di questa reprise. È una sensazione, è una sensazione, ho avuto questa sensazione, cosa vuoi fare? Sì, sì, sì, beh, io molto bello, io lo dico. Andavo via le mosche. Non andavi via, non buttavi via, dimmi. Dico sempre che Joe in questa canzone ha trovato la musica giusta per queste parole, appunto come diceva Paolo, che per le sue canzoni, quelle le poesie che gli passa Casolari, lui è riuscito a trovare la musica giusta per le canzoni, appunto per le parole di Casolari, come Fotogrammi, come certo. Ma che mondo è, così, che sono canzoni che proprio sì, cioè, sì. Sono delle canzoni che sono nostre, non c'è niente da fare, sono belle così, forse è il bello appunto questo, per quello che diciamo sempre agli amici, mandateci i testi, le poesie, insomma quello che avete, il materiale, poi noi... Un conto è avere una canzone già fatta lì, allora sì, lì la puoi arrangiare così, ma quanto mandano solo il testo, che io preferisco, perché lì puoi proprio lavorare. La costruisci proprio. Come mai avete avuto l'idea geniale, secondo me, di farti mandare i testi dei pezzi? Come è andata l'idea? Io ho sempre l'idea? Lavorato in questo modo, anche perché tempo fa, quando provavo a fare queste cose, mi divertivo a leggere il giornale. A qualche appuntamento. Mi divertivo a che è mezzanotte forse. Sì, no, 23:54. No, 5 sì, minuti. Sì, sì. 5 minuti, ok, dimmi. No, perché mi divertivo a leggere il giornale. Sì. Un giornale e con la chitarra cantare quello che c'è scritto nel giornale. Però allora, bella da lì cosa, pian piano è molto inglese questo qua, secondo me, dici? È molto inglese, molto beatlesiano, vero? Io non lo so se facevano i Beatles o no questo, però io ho imparato così, insomma. Adesso quando mi mandano un testo guardo un po' le parole, il solito Casolari, lui è molto bravo nel sistemare le frasi quadrate, finire in E quando, per dire, o in A, sì, chiaro, per fare la rima, il poetico, certo. E da lì io prendo. È diventato un vostro, insomma, sesto, no? Un sesto noi, sempre noi, possiamo dire. Scrive veramente dei bei testi. Sì. Io ho scritto dei bei testi. Comunque, dice sempre Paolo, quando ne hai bisogno, lui scrive anche molto in dialetto. Ah, bene. Sì. Poi c'è questo Paolo che, bene o male, sceglie anche le canzoni che sente più adatte noi, perché probabilmente, cioè, sicuramente gli ha mandato anche altri testi materiale, dove magari non erano Poi se gli dico, ad esempio, non so, parlami della determinata cosa, lui mi chiede l'argomento e esattamente. In base alla determinata e cosa. Avete un c'è un disco nuovo, progetto, qualcosa? No, ci sarà. Tante canzoni nuove li fate stile live, tante canzoni nuove o no? Le faremo sentire. Cioè, se avete, non so, adesso abbiamo fatto sentire dei pezzi. Ah, ma dici proprio dei brani inediti questa sera? No, stasera, dal vivo qualche brano inedito lo fate sentire. Non ancora, perché ce l'abbiamo, le idee ce l'abbiamo, ma non abbiamo ancora messi sul tavolo, diciamo, non abbiamo ancora parlato di quello. Certamente. Sì, io ne ho alcuni di pronte. In cova, esattamente, nel cassetto. Ma quante cose avete nel cassetto che per motivo diverso sono rimaste nel cassetto? Adesso, per quello che ci riguarda adesso quel che riguarda siamo adesso, molto concentrati sul discorso del live, che adesso oggi non è così semplice, certo, da fare. Reperire serate anche, insomma, perché ma non avete difficoltà a reperire serate? No, non abbiamo difficoltà, però insomma ci vuole bisogna darci dentro, perché adesso insomma la crisi, così, che questa fantomatica crisi, non so chiamarla fantomatica o non fantomatica, comunque attanaglia e riguarda un po' tutti e probabilmente riguarda anche noi, però diciamo che stiamo cercando di fare il massimo. Per quello che riguarda invece il discorso delle cose nuove, quando sarà il momento, probabilmente, perché di solito non abbiamo mai programmato niente, se non quando avevamo la casa geografica, che adesso abbiamo, oggi come oggi siamo molto free, cioè se verrà fuori qualcosa di nuovo sarà autoprodotto. Ah, siete totalmente autoprodotti? Sì, adesso. Perché case geografiche, insomma, non abbiamo un grandissimo rapporto. Ah, un bel rapporto. C'è un pochino anomali da questo lato. In tutti i sensi. Diciamo che, come spiegavo prima, appunto abbiamo... fatto dei dischi con questa casa discografica che ci aveva appunto promesso Maria Monti comunque di pubblicizzarlo in un certo modo che non è andata. Abbiamo verificato che non è stato così, allora ci siamo un pochino scontrati. Ho capito, quindi avete deciso deciso che le prossime produzioni saranno delle produzioni autoprodotte. Sì. Come hanno fatto tanti gruppi di adesso. Oppure con etichette indipendenti, certo, piccole, che hanno voglia di fare qualcosa di nuovo. Sì. Ok, facciamo sentire un altro pezzo dal disco. Ti ricordi il titolo? Non mi ricordo. Credo che sia quella di cui abbiamo parlato prima, sempre di Parole proprio... di Casolari, musica di Giampaolo Lancellotti. Ma che mondo è? Perfetto. Ma che mondo è? Questo mondo bastardo. E povertà aspettano la sera, insieme si confondono un'altra preghiera. Ma che mondo è questo mondo bastardo, dove vivi un minuto, dove nasci per sbaglio? Ma che mondo è se una vita non basta, se una troppo silenzio per sembrare anche vero, e l'unico rumore è il rumore del cielo. Ma che mondo è questo mondo bastardo, dove vivi un minuto, dove nasci per sbaglio? Ma che mondo è se una vita Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, 23 e 24 02. Stavolta andiamo un po' più oltre. 02 0 Beh, non è giusto. È nucleare, sicuro. È nucleare. 003. Andiamo un po' più oltre stasera. Mezzanotte, 3 minuti. Siamo già al giorno 15. Cari amici della notte. La presa della Bastiglia è già passata, adesso siamo sì. al giorno 15. A tutti gli amici della notte. A tutti gli amici che ci seguono da casa. Perfetto, e certamente. A quelli che non hanno sonno. Come noi. O che forse abbiamo fatto addormentare. Hai sonno te? Ah, Marzullo, ti avevo detto che sei Marzullo. cari amici, buonanotte. E quando il giorno finisce? E Cribio, mi consenta, allora, siamo qui in diretta, adesso parlo io perché devo parlare io e devo dire, ghepiscimi, mi raccomando, sveglia da casa, forza, ci sono sempre noi per radio, forza, sveglia. Very well, ok, adesso... Ah, ti ha fatto gli accordi? Sei pronto con gli accordi? Ci dobbiamo organizzare. Mi pare giusto. Bisogna accordarsi. E com'è il tuo piede? Che Paolo stava guardando il tuo piede adesso e lo stava gonfiando. Lo stava gonfiando con la pompa. Vediamo il tuo piede. No. È un po' gonfietto. No. Allora, un po' gonfietto. Diventeremo famosi. Mare, non ha bisogno dell'occhetta del salvagente. Si ingrossa subito. Sì, ma si butta, però dopo i piedi vanno in alto, lui rimane sotto, annega. Basta. No, facciamo un talk show stasera. Bello, così. Tutto dal vivo e tutto assolutamente. Ho visto che è la mezzanotte, allora, cioè, mezzanotte da mezzanotte in poi sempre noi ci scatenano. Fuori dalla zona protetta. I bambini sono già a letto. Ok, sentiamo. Comunque io quando vado al mare mi metto le calze, no? Infatti ho la bronzatura delle calze. Vedi? È l'unico con lo slip e le calzine in riva al mare, lo riconoscete subito. Dopo 3 giorni in spiaggia creo tendenza, tutti con le calze. Ah, benissimo, allora suoniamo il pezzo né fuoco né vento, ok? Certo. Va bene, facciamo un altro brano live. Facciamo un altro, perché il live a una certa ora, dopo la mezzanotte, danno un non so che. Ma Maria, Miria e Silvia saranno già a letto? Ci stanno seguendo ancora? Penso di sì. Vabbè, poi dopo magari vediamo se non riusciamo ad addormentarle con le nostre canzoni. Mandiamo ancora i saluti, dai. Okay. A Miria e Silvia che pazientemente ci stanno ascoltando da casa. Né fuoco né vento. Rock Wave. L'onda del rock. Mentre cammini fra i vicoli, dando calci a lattine di birra davanti da te. Ormai ti sembrano secoli che non liberi il treno di forza che è dentro di te. Che non molli più i freni lasciando che corra da sé. E non dici più nulla che non corrisponda a un perché. E pensi sia giusto tornare a sentire la forza di un sogno che sappia scoprire di nuovo nel fondo dell'anima il risvolto migliore di te. E credi importante viaggiare sicuro, guardando deciso in faccia il futuro, gustando ogni singolo attimo di libertà. La tua vita sembra si srotoli e ti mostri che tutto va bene, ma chi manca sei tu. E sei tu che non vivi più libero, e rifletti poi pensi e ripensi, e non esci più. E ti accorgi che spesso ogni scelta è una scelta a metà. E non lasci che l'aria accarezzi la tua libertà. Non c'è fuoco né vento che possa fermare la voglia di un uomo di tornare ad urlare con grinta e con forza, gridandoli i pensieri più grandi che ha. Non c'è spazio nel cielo che possa coprire la gioia di un uomo che sa di sentire brillare i suoi sogni più autentici sopra di sé. Non c'è fuoco né vento che possa fermare la voglia di un uomo di tornare ad urlare con grinta e con forza, gridandoli i pensieri più grandi che ha. Non c'è spazio nel cielo che possa coprire la gioia di un uomo che sa di sentire brillare i suoi sogni più autentici sopra di sé. Quei sogni che ancora riaccendono il meglio di te. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, tanta grinta, veramente tanta grinta. E questa è una canzone. Una canzone che dà molto trasporto. Beh, questa canzone, se posso intervenire, scusate, volevo dire qualcosa tu, Date? Prego, intervieni pure, sì, guarda, okay, ti lascio va bene. Pure il microfono. Vista l'ora tarda, parliamo molto piano. No, volevo dire, questo brano è un brano scritto da la musica è di Marco Negri. No, ho sbagliato, Marco 10. Perché? Infatti ho visto un nola di dietro dalla regia che mi diceva no. È una cosa voluta, l'abbiamo fatto per vedere se eravate attenti. Era Vita mia, che è stata scritta da Marco Negri, già coautore con Pierangelo Bertoli del Pescatore. Questa invece è la musica di Marco 10, che è notoriamente, diciamo, è stato il braccio destro di Pierangelo Bertoli per tanti anni, ed è un brano che insomma piace parecchio quando lo facciamo live. Insomma, stasera ve l'abbiamo fatto sentire in versione unplugged. In modo strategico, in che posto della scaletta è fatto questo pezzo qua? Per scaldare l'ambiente o già l'ambiente è caldo? No, questo è un brano che alterniamo, a volte facciamo, a volte non facciamo, dipende dalle richieste. È un brano abbastanza che ripercorre un po', se tu ascolti bene il testo, è un pezzo che Pierre ha scritto verso, diciamo, un po' il viale del tramonto, diciamo, verso la fine. Sodo, però, abbastanza duro. Poi, diciamo, io lo posso, non so se sei d'accordo, io lo potrei definire un combat rock questo pezzo. Sì. Combat folk. A me è venuto in mente questa cosa. Sì, io credo di sì, perché il testo, diciamo, con la musica che è abbastanza grintoso, ma il testo soprattutto dice tutto, insomma, quello che sono stati, diciamo, gli ultimi anni un po', dove, insomma, credo che quest'artista sia stato un pochino dimenticato. Molto dimenticato, diciamo pure. E non ha mica peli sulla lingua Pierangelo quando deve dire. Questo è una delle ragioni per la quale è stato un po' dimenticato. Questo è vero. Beh, diciamo che io posso dire una cosa. Io posso dire una cosa che forse magari in pochi sanno. Magari qualcuno mi perdonerà, però Pier ha sempre detto: Sanremo l'ho fatto sempre quando avevano bisogno dell'handicappato sul palco. È vero. E questo mi è rimasto molto impresso, devo dire. Comunque, vabbè, ognuno ha il suo pensiero e la sua opinione. Anche se quel pezzo che ha fatto con i Tazenda a Sanremo era un grande pezzo, nonostante che sia una ballata molto accattivante che entra dentro, però era fatto bene, secondo me. Sì. Non è un pezzo da Sanremo, proprio da Sanremo, così usa e getta, un pezzo che si ricorda ancora. Beh, noi ci teniamo, lo nominiamo sempre, comunque, durante i nostri tour, come facciamo per altre cose. Tra l'altro, una delle cose che per noi è di fondamentale importanza è essere ormai da 5 anni anche testimonial di un'associazione, sì, Onlus, certo, che è l'ADMO, associazione, certo, donatore midollo osseo. Io sono iscritto dal 92, Davide è fresco dall'ultimo prelievo del sangue, si è iscritto anche lui all'ADMO, e di questo ne sono molto fiero, perché si vede che a forza di dirglielo dai. No, ma poi la cosa da dire è che appunto ho compiuto 40 anni e mi hanno preso ancora come donatore, perciò magari per chi ci sta ascoltando che ha qualche dubbio se sono ancora in tempo, non faccio in tempo comunque di informarsi, perché 40 anni si è ancora in tempo. Esatto. E poi comunque andate a sentire, io l'ho fatto tramite l'Avis perché ero lì, ho visto il manifesto di Admo, ho chiesto e è arrivato subito il dottore, in giro di mezz'ora era già scritto, perciò se c'è qualche altro donatore che vuole fare la stessa cosa come ho fatto io, oppure chi ancora è fuori da tutto ciò, certo, andando in una sede Avis comunque credo che le cose siano comunque collegate, può benissimo, certamente, informarsi anche per quanto riguarda Admo. E ritornando un momento a Pierangelo Roberti, mi è venuto in mente questo, non so se siete d'accordo, se De André è diventato un avvocato ma un cantante di successo è grazie alla canzone di Marinella, e se Fiorella Mannoia è diventata una cantante di successo è grazie al Pescatore. Ah, per questo sicuro, quindi non c'è niente da fare. Festa di Marinella, diciamo che Pierre è stato insieme ad altri un ottimo talent scout, insomma, devo dire. Della cassetta avuta da Ligabue e altre cose. Però il Pescatore ha lanciato Fiorella Mannoia, come certo, la canzone di Marinella, certo, ha lanciato te, Andrea. C'è poco da fare. Certo. Su questo la sua onda è un gigante. Eccola qua, bellissimo. Esatto, proprio quella. Penso che sia 83, se non sbaglio, una cosa del genere. Sì, 83. Più o meno. Un grandissimo pezzo. 24 e 13. Adesso la scaletta, io proporrei un pezzo da disco e poi facciamo un gran finale. Ah, sicuramente. Un pezzo da disco, cosa hai scelto da disco, ti ricordi? Lei? Cioè, la canzone dedicata a tutte le ragazze. Sì, insomma è una canzone d'amore. Tutte le donne. Tutte le donne. Quelle donne che rimangono sempre un po' un chiodo fisso nella testa degli uomini. Insomma, questi uomini che diventano matti per... non so il detto qui com'è, visto che è passata la mezzanotte, i bambini sono a letto, che dicono che non si dice più di un carro di buoi. Non si dice, ok. Lei la base di tutto, lei la causa dei miei problemi, è per lei che scrivo canzoni, è per lei che provo emozioni, è a lei che penso tutto il giorno ed è con lei che passo la notte. Dolce poesia, è lei la causa di tutto ed è solo lei che mi guarirà. Trascinata dal vento nel blu, lei dolce Venere sperduta, per cui vivere e sognare. Lei non cede gli occhi miei, solo lei, sempre lei, Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, 23, dico sempre 23, forse per via dell'ora legale, sono le 24 e 18. Sì, ma sì, le 23 e 18, però guardi, sono le 24 e 18. Abbiamo 0, 18. Microfono nucleare qua sopra, 24, 18 e 19. Perché, sì, perché quello è avanti 10-12 secondi. Sì, di pochissimo, c'è cioè una sfasatura di pochissimo rispetto all'altro. Secondi, perché quello è nucleare. È quello nucleare, tu. È quello più preciso. Allora, parlando del nucleare, io volevo dire l'Italia che il nucleare è una cosa importantissima, è una cosa... Aspetta che abbiamo in linea anche un altro personaggio che voleva intervenire su questa cosa del nucleare. Fratelli e sorelle, questa sera, questa notte, sempre noi qui per radio, radio Blu, Radio Veneto, e sempre noi fanno canzoni dei sempre noi, sempre quelle. Ecco, allora volevo dire, mi raccomando, è per l'Italia, mi raccomando al Veneto, ascoltateci bene, perché prima di andare a casa dovete ascoltare sempre noi, acquistare i loro CD, mi raccomando di acquistare i loro CD e anche le magliette, se partecipate ai concerti, ma dove suonano i sempre noi? I sempre noi suonano in tutta Italia, saremo, date più vicine, dai. Saremo, sabato saremo a Felegara di Reggio Emilia, e poi dopo saremo in provincia di Modena, a Boschelbergati, il 3 agosto, esattamente vicino a Castelfranco Emilia. Poi saremo il 12 settembre a Sant'Agata Bolognese, diciamo che sono le date più vicine. Qui a Padova, insomma. E adesso sono quelle che mi sono venute in mente, poi magari adesso ne usciranno nuove. Andate anche oltre il confine? No, oltre il confine non siamo mai andati. No, sì, siamo andati un anno a Lugano. Abbiamo fatto una serata lì dove siamo stati anche intervistati dalla rete 1 di radiofonica di Svizzera di Aliana. Esatto. È una bella rete quella della Svizzera. Sì. In Moldavia. Moldavia. Per suonare là? Sì, in Moldavia. Devono saper dire qualcosa, adesso vediamo. Bene, sarebbe una cosa positiva. Sì, noi vogliamo portare la nostra musica anche da un po' in giro per l'Europa. Sì, beh, lo sai che non so in Moldavia, però in Russia, in quei paesi là, molto famoso è Drupi, è famosissimo. Sì, sì. Drupi, anche Albano. Gelato al cioccolato. E anche Pupo. Anche Albano. Anche Albano, sì. Anche Pupo, sì. Sì, si fanno grosse tournée. Non il principe però ancora, non il principe. No. Speriamo di no. Perché insomma... Ok, benissimo, adesso abbiamo concluso 24 e 21 questa bella cavalcata, sono state due ore all'incirca di emozioni, secondo me, al di là, perché la musica fa sempre emozionare, così. Sempre, poi quando si suona live così, insomma, questi pezzi che abbiamo suonato live, insomma, sono sempre emozionanti. Adesso ne facciamo un altro, senza prima però naturalmente dare due indicazioni, diciamo, certo, di quello che è il nostro gruppo, no, lo dice Davide adesso. Lo devo dire? Devi dire il nostro sito, siamo su Facebook. Credo che sia, non lo so se... Allora, www.sempranoi.it. Poi, come ho detto anche prima, internet, insomma, adesso sta andando moltissimo. Amici che ci seguono proprio sulla rete, veramente da tutti i canali. Appunto, come diceva Gio, anche su Facebook. Poi abbiamo anche MySpace. Esattamente, non ci facciamo mancare niente. Non ci facciamo mancare nulla. I dischi, perciò... dove li possiamo acquistare? I vostri dischi? Ma i dischi, allora, chiaramente si può scrivere direttamente anche a info@sempranoi.it, che il nostro staff ci penserà a farglieli avere. Altrimenti esistono ancora dei grandi supermercati dove la nostra ex casa discografica distribuisce ancora, tipo gli Ochan, supermercati di grossi e di dimensioni, dove magari si può trovare il cartoncino, oppure non lo so, l'espositore dove dentro ci sono i nostri CD, e basta guardare Sound Music International e in alcuni supermercati ci sono ancora, insomma. Si trovano ancora questi qui. Se no, bisogna mandare, come dicevo prima, una mail direttamente e il nostro staff li spedirà. Scrivete. Esattamente, e sentite. No, visitate, dovete sentire su radio. Il bello ascoltateci su radio Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto, frequenze, devo ricordare anche le frequenze, no, le sanno. Basta che vadano sul Blu Radio Veneto. seguiteci, ma andate a visitare anche il nostro sito www.sempre noi.it. lasciate dei messaggi nel guestbook belli, mi raccomando, non lasciate dei messaggi brutti perché li cancelliamo. Va bene che qualche critica, no? Certo, ma le critiche ci vogliono, sono costruttive, noi le accettiamo tutte sicuramente, se sono delle cose intelligenti, perché quando scrivono cose non intelligenti, allora credo che non serva niente e basta. Accettiamo le critiche, perciò scrivete, lasciate il vostro messaggio, segno del vostro passaggio nel nostro sito, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, cercate di partecipare ai nostri concerti, ascoltateci sulla radio e niente, veniteci a trovare, dai, quando potete, nei nostri concerti, ve li abbiamo elencati, però se non vi ricordate potete comunque trovarli nel sito www.sempre noi.it, come ho già detto. E poi fra qualche giorno ci sarà nel podcast, ci sarà questa trasmissione, quindi si può scaricare, si può sentire, si può risentire, è una cosa molto importante. Ah sì? Certo. Allora possiamo farlo anche grazie noi. Al lavoro che fa Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico su queste cose. Bene. Ok. Ringraziamo tutti e soprattutto ringraziamo il mitico regista Michele Toson, che senza di lui niente sarebbe stato possibile. Grazie. E la prossima settimana avremo un concerto di un gruppo di Dolo, di gruppo con la grappa e col produttore americano. Con la sgnappa. Con la sgnappa. Tre bottiglie di sgnappa. E sempre noi ci salutano con un pezzo che non serve nominare, dire il titolo. Il brano che chiude sempre i nostri concerti, perciò. Dico solo gli attori. Salerno Dattoli, vero? Salerno Dattoli, sì. E ti ricordi il perché, come è stato, qualche aneddoto sul motivo che è stato lanciato questo pezzo? Come mai autori non molto famosi per i nomadi, non spesso e volentieri non hanno scritto per subito loro. Come ha fatto arrivare. Come hai fatto arrivare ad Augusto. Ad Augusto Dattoli. Il principe lo chiamavano Vandelli. Vandelli, 84, sì. Esattamente. Gli diedero a lui questo pezzo. Ah, ok. E lui disse, e lui stava facendo un altro pezzo di Battisti che non mi ricordo come si 29 chiama. Settembre? Forse 29 settembre. E disse: guarda, io adesso sto facendo questo, non posso fare, però questo pezzo, dice, è adattissimo alla voce di Augusto. Benissimo. E ci fece dare questo pezzo. E poi rimane per molto, rimane sempre. Noi come lo abbiamo provato è stato ok. Ti faccio un ultimo flash, ti ricordi la Rolls Royce gialla dell'Equipe 84 che girava per Modena? Sì, me la ricordo, io l'ho vista in fotografia più che altro, perché ecco, esattamente. Sono di Carpi e non... Però loro giravano con la Rolls Royce gialla, come i Beatles, che avevano i negozi come i Beatles, sì, poi chiaramente hanno fatto un flop, però avevano anche loro, copiavano i Beatles, positivo. In quel periodo lì la Modena la chiamavano... Modena la chiamavano la Liverpool, esattamente, italiana. E anche hanno scritto l'inno nazionale della squadra di calcio del Modena. Sì, è vero, esatto. Esattamente. Poi c'è a Modena, ancora adesso ne parlano, questo Bar Italia dove tutti i musicisti si incontravano lì. E da lui nasce la leggenda della musica modenese. Sì. Anche la tua leggenda praticamente nasce, sì, anche da là. Ma io non ho mai frequentato molto. Dalla regia ti stanno... Però... Sì, dobbiamo concludere, ma queste cose la gente non le sa, è giusto dirle. Io non sapevo com'era venuto fuori questo pezzo, è una mia curiosità che ho chiesto a Paolo, visto che all'epoca il pezzo... Sta facendo dei gestacci di là in regia. Terminiamo, allora, buonanotte a tutti e con questo meraviglioso pezzo. Appoggiate la testa sul cuscino e ascoltate questa canzone. Ciao, grazie a tutti. Rock Wave, l'onda del rock. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sul sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile, e io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino, non è caldo come il sole del mattino. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile, e io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto no. Woman, no cry. No, woman, no cry. No cry. No, woman, no cry. No cry. No, woman, no cry. Oh, io, un vagabondo che sono io, un vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, un vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Buonanotte a tutti, buonanotte dei Sempre Noi, Paolo, Chris, Joe, Davide, Napo, Sempre Noi, ciao a tutti! Buenas noches. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock.